Neppure la scienza medica, sempre per il bene dei pazienti, non se la fece scappare e prontamente l'annoverò nel proprio prontuario salvifico. Solamente in Francia, fra il 1749 e il 1799, vennero pubblicati ben 23 libri sui prodigi dell'elettroterapia. L'elettricità guariva dai reumatismi, dal mal di denti, numerosi paralitici cominciarono ad alzarsi e a correre in giro risparmiandosi il viaggio a Lourdes, e lo stesso Paul Lafargue, a metà dell'Ottocento, era ancora un fervente ideologo dell'elettroterapia e non perdeva occasione per romper l'anima a suo suocero, tal Carlo Marx, perché vi facesse ricorso per liberarsi dai suoi acciacchi. C'è voluto un po' perché la si seppellisse fra i miraggi della scienza medica e ci si vergognasse adeguatamente del male che si faceva. Tuttavia, il carico di valori positivi investiti sull'elettricità rimane piuttosto cospicuo. Ancora l'anno scorso, sulle pagine delle riviste scientifiche, se qualcuno si azzardava a dire che forse i campi elettromagnetici proprio innocui non erano per chi ci stava nei pressi, beh, veniva sommerso dalle contumelie. Non è vero, non è vero, non è mai stata provata alcuna correlazione fra l'esposizione ai campi elettromagnetici e certe malattie, sono tutte fandonie al servizio della sovversione. Così le varie Enel, i venditori di elettrodomestici, di computer e di telefonini, come tutti coloro che espongono la gente al rischio, potevano gozzovigliare serenamente. Nei giorni scorsi, il Tempo Medico ha dato notizia di un rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità che ammette la stretta correlazione fra leucemia, tumori al cervello e tumori al seno, i campi elettromagnetici. Si parla di rischi altissimi, soprattutto per i bambini residenti vicino agli elettrodotti, per telefonisti, per macchinisti delle ferrovie, per esempio. Una spiegazione in termini di meccanismo biologico non è ancora data per certa, ma sembra che la componente magnetica abbassi la produzione di melatonina, un ormone prodotto dall'ipofisi. Anche stati di depressione e mal di testa possono costituire un sintomo di questo particolare tipo di avvelenamento. Un rapporto segreto e poi svelato di recente in America dice che se si volesse evitare il cancro alla popolazione, occorrerebbe ridurre di 5.000 volte la soglia di esposizione ammessa per legge. La nostra stampa popolare democratica, che fa spesso titoli cubitali, ma chi lo sa perché, questa volta è stata particolarmente schiva. L'Enel, il governo, il Parlamento, anche quel Presidente della Repubblica che a prendersi le scosse non ci sta, stanno zitti. L'opposizione, per rimanere alla metafora elettrica, è da tempo fulminata. In compenso ho sentito un'altra voce forte e decisa. Accendo la televisione e vado a cadere nella trasmissione strutturalmente perfetta secondo la gerarchia del regime. Allora, conduttrice in piedi, tailleur corto, tacchi alti e disinvoltura massima, arengo misto di interlocutori. Allora, ci sono alcuni abili figuranti di bell'aspetto. Qualche scienziato ben lottizzato secondo gli anfratti del maggioritario, se c'è il materialista ci sarà il possibilista scetticheggiante, ci sarà l'accomodante spiritualista cattedratico e il razionalista impinguito nella libera professione. Sono ammesse le diversità purché ci sia una sola uguaglianza, l'incapacità di intendere e di volere. Poi c'è ovviamente il parapsicologo, e perché no, non può mancare, il mestatore nel torbido, una buona rappresentanza di preti e una delegazione dei miracolati di turno. Il giochino sta tutto nel far vedere il caso misterioso ed eclatante agli scienziati, approfittare della loro beata ignoranza su cosa sia la scienza che dicono di rappresentare, godere dei loro balbettamenti e dei loro litigi e far ingrassare preti e parapsicologi. I miracolati di solito, una volta che sono serviti, vengono rapidamente rimessi nel freezer. L'altra sera tutti costoro credevano di parlare di cervello e di mente, malattie relative ovviamente comprese. Le innumerevoli sciocchezze ad un certo punto sono state soverchiate dalle grida minacciose di un cattedratico che mi hanno lasciato sgomento prima e furente poi. Costui sbraitava che era ora di finirla di demonizzare l'elettroshock e che bisognava dire invece con chiarezza che l'elettroshock era una terapia validissima che aveva salvato milioni di persone. Nessuno gli ha detto il fatto suo, tantomeno la disinvolta conduttrice a cui tutto va bene, tantomeno il sedicente materialista di turno che vilmente ha semplicemente risposto: beh, io non sono qui per far polemiche, come se far polemica fosse un peccato televisivo che porta dritti dritti all'inferno della non telegenicità. Beh, allora facciamola noi un po' di storia. Ad un paio di figuri di nome Sackel e von Meduna venne l'idea che epilessia e schizofrenia dovessero essere incompatibili fra loro. Non riuscendo a far diventare schizofrenici gli epilettici, indirizzarono i loro sforzi terapeutici, si fa per dire, verso il tentativo di far diventare epilettici gli schizofrenici. Iniettavano insulina a dosi progressivamente sempre più elevate nel paziente e aspettavano che di lì a pochi minuti il malcapitato fosse preso da convulsioni e finisse direttamente in coma. 4 o 5 ore dopo, quando gli riusciva, lo tiravano indietro con una somministrazione di carboidrati. La cura prevedeva almeno 3 comi alla settimana, per un totale che andava da 20 a 25 settimane. Secondo gli autori, tuttavia, questa arguta terapia aveva un difetto, e il difetto era costituito dal tempo che intercorreva fra l'iniezione e le convulsioni. Erano molto seccati del fatto che i pazienti ne fossero terrorizzati, a tal punto che buona parte dell'efficacia terapeutica ai loro ne potesse venir compromessa. Detto e fatto. Cerletti e Bini, nel 1938, detto anche anno sedicesimo, sostituirono l'insulina con l'elettroshock che, determinando una perdita di coscienza quasi immediata, eliminava lo spiacevole intervallo. Le dosi arrivavano fino a 150 volts per mezzo secondo e fino a 20 ripetizioni. I risultati, a detta dei fans di questa tecnica, sono ottimi. Coloro che, classificati per loro sfortuna come schizofrenici, erano sottoposti alla terapia, ne uscivano come nuovi, non avevano più né deliri né allucinazioni e soprattutto, ma guarda un po', erano pronti, prontissimi a riadattarsi a quella vita sociale che prima gli faceva schifo. Potenza del genio terapeutico. Silvano Arieti è uno psichiatra che nel 1955 ha pubblicato a New York Interpretazione della schizofrenia. Ne esiste un'edizione italiana pubblicata da Feltrinelli nel 63. Si dice convinto assertore della bontà degli elettroshock, quindi non è un testimone, diciamo, di parte avversa. Bene, a pagina 449 dice: «La base teorica di questa terapia è molto discutibile». A pagina 451 dice anche che all'epoca in cui scrive sono già state formulate non meno di 50 teorie diverse per tentare di dare una spiegazione di ciò che accade nel cervello dei pazienti sottoposti ad elettroshock. Più avanti ammette che, oltre ai benefici, la terapia produce di sicuro qualche danno, ma di intensità relativamente leggera, di carattere reversibile. Questi danni poi risultano più evidenti dopo l'elettroshock che dopo l'iniezione di insulina. E per quanto riguarda la vantata reversibilità, sente anche il dovere, bontà sua, di specificare che ciò non accade qualora venga somministrata una dose esagerata di trattamento per un periodo molto lungo. Ammette anche che durante il trattamento si è riscontrato nel paziente un certo deficit intellettuale. Io vorrei solo far notare che questi riscontri erano compiuti sulla base delle tecniche ispettive di allora, quando né si sapeva di tomografia assiale computerizzata, di risonanza magnetico-nucleare o di tomografia d'emissione di positroni, quando cioè nel cervello non ci si entrava per nulla e dunque le verifiche erano quel che erano. Arieti si dice informato di qualche critica rivolta al suo toccasana, soprattutto di quelle che lo considerano una punizione inflitta ai pazienti, ma sostiene che scientificamente è una critica irrilevante, perché, dice lui, quell'opinione è proprio l'opinione dei pazienti, come se una punizione inflitta a qualcuno potesse far male prima a qualcun altro. Sinceramente credevo che queste porcherie fossero finite con gli anni 50, con gli oppositori politici in Unione Sovietica, con la società borghese nell'Occidente della cosiddetta guerra fredda, e invece no, a volte ritornano. Non sempre siamo sotto al padrone della carota, ogni tanto rifiniamo sotto quello del bastone. Questurini e aguzzini si riciclano con la velocità del vento, l'ideologia scientifica è un fuscello. E allora, oggi, incuranti delle urla di orrore dei deboli di ieri e di quel loro straziante dolore che ancora segna di sé la disattenzione quotidiana di noi tutti, tornano i signori dell'elettroshock. La società si fa complessa e per quanto faccia la televisione c'è il rischio che alla bonaccia segua la tempesta, ma dove non arrivano i Pippo Baudo e Mara Venier uniti nella lotta arrivano 150 volts nel cervello. I padroni del mondo che predicano sorridendo il sedativo della morte delle ideologie e che tuttavia sanno benissimo come stanno le cose, sono pronti a ricorrere ai vecchi metodi sicuri. Non appena le masse sempre più crescenti dei nuovi poveri prenderanno collettivamente coscienza di ciò che le unisce.